Siamo in collegamento telefonico con Azzurra Utta per parlare del progetto Post Kino, cinema itinerante in Puglia, quattro tappe dal 2 all'8 agosto. Azzurra, ben trovata. Ce Grazie, grazie, ciao. lo presenti il progetto? Boschino è un progetto che sto realizzando con altri tre soci, altri tre amici con i quali abbiamo, diciamo, realizzato già altri progetti a Milano, soprattutto perché arriviamo, torniamo, diciamo, in Puglia dopo un percorso svolto lì in diversi settori. Il progetto Boschino è un cinema itinerante e multisensoriale, nel senso che stiamo cercando di offrire, oltre alla proiezione di film che in realtà sono grandi classici, un contesto particolare e insolito, quindi delle location molto suggestive e comunque legate anche alla proiezione in programma la stessa serata. Per farvi un esempio, non so, la preview di Poschino si è svolta sulla terrazza del cortile di Sant'Antonio a Bari Vecchia, e la proiezione è andata in onda era quella del Poschino con Marco Luigi, e insomma, vedere il Poschino con alle spalle il mare, il lungomare di Bari, è senz'altro qualcosa di molto più suggestivo. Oltre a, diciamo, questo concetto fondamentale, quindi di portare il cinema in luoghi dove il cinema non c'è e comunque luoghi molto suggestivi o insoliti, uniamo degli eventi speciali, diciamo, quindi delle esperienze in più che lo spettatore può fare, che possa stare dal reading di poesie come quello che ci sarà, anzi domani ci sarà proprio un reading di poesie, ma quindi qualcosa di molto più coinvolgente, a Ruvo di Puglia ad esempio, oppure delle musicazioni dal vivo di alcune pellicole, ma pure di alcuni artisti, o piuttosto che laboratori realizzati, cioè da realizzare con bambini, ecco, quindi delle esperienze che possono spaziare tantissimo. Ci parli anche un po' di questo gruppo che si è messo insieme per realizzarlo? Sì, allora noi siamo Azzurra Utta, Vittoria Basile, Maria Angela Castellano, Emanuele Miccoli e ci siamo conosciuti, diciamo, tutti a Milano, dove in realtà prima avevamo intrapreso anche un altro progetto ancora abbastanza attivo che si chiama No Name Space, ed è un progetto in realtà più legato all'arte contemporanea. Dopo abbiamo, insomma, iniziato, abbiamo saputo innanzitutto di questa possibilità di ricevere il bando, il finanziamento tramite il PIN. Abbiamo pensato a qualcosa di più, non so, anche forse un po' più popolare da proporre, quindi abbiamo pensato di cimentarci un po' con il cinema e abbiamo appunto realizzato, sviluppato questo progetto che ora è in presenza. Senti Azzurra, i riferimenti web per maggiori dettagli? E allora il sito www.poschino.it, oppure anche la pagina Facebook, sempre Poschino oltre il cinema, e Instagram Poschino. Quindi ci potete seguire su tutti i social, siamo abbastanza attivi. Ripetiamo le quattro tappe di agosto? Sì, allora saremo il 2 agosto a Ruvo di Puglia a Torre Giuliano, in programma c'è Fahrenheit 451 di Truffaut, poi il 4 saremo a Martina Sanca nell'allevamento San Paolo con il libro della giungla, il 6 alle delle dune costiere di Ussuni con il sale della terra, il documentario di Bembes, e finiremo l'8 agosto a Palazzo Ulmo, Coworking Ulmo, con una doppia proiezione in una sala horror con gli uccelli di Hitchcock e in un'altra sala, diciamo sala Oniric Dreams, la chiamiamo noi, questa è la mia vita di Godard. Benissimo, allora ripetiamo Poschino, cinema itinerante in Puglia dal 2 all'8 agosto. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Azzurra Utta. Azzurra, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Vive il lupo e grazie a voi.